giovedì 16 novembre, siete all'ascolto di Zardins Magnetics. Sono le ore 20:12, appunto siamo in diretta come sempre. Vi ricordo Zardins Magnetics, trasmissione autogestita dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste, e la radio che ci ospita è Radio Onde Furlane. Allora, oggi iniziamo così la trasmissione parlando delle mobilitazioni, così annunciando un po' di mobilitazioni che ci saranno nella giornata di domani. Mobilitazioni appunto contro il genocidio dei palestinesi. Ricordiamo che il 17 novembre è stata indetta questa giornata di sciopero da parte del SICOBAS e appunto è anche stata lanciata una manifestazione nazionale a Bologna per sabato 18 novembre. Ci sarà a Lecco un presidio contro la guerra a fianco dei palestinesi, poi ai mercati generali di Grugliasco a Torino dalla mezzanotte di oggi, giovedì 16, e fino a domani ci sarà appunto un presidio, e ci sarà un altro presidio domani mattina al porto di Salerno, quando dovrebbe attraccare la nave israeliana Zim, e poi anche, ricordo, due cortei e presidi universitari a Roma, ma ce n'è comunque non solo a Roma. E c'è stato un corteo a fianco del popolo palestinese alla Sapienza, ossia organizzato dalla Sapienza, e domani ci sarà un presidio a Piramide, e appunto che porterà avanti il discorso di fuori la guerra dall'università, quindi contro la ricerca universitaria, ahimè sempre più diffusa e capillare e diciamo inglobata in ogni facoltà. La ricerca appunto a scopi bellici. E allora, come approfondimento, diciamo, sul discorso dell'oppressione del popolo palestinese da parte dello Stato sionista di Israele, volevamo proporvi alcuni estratti da un articolo da una conferenza, in verità, di Ilan Pappé. Abbiamo già letto alcune cose, che è questo storico, lui in realtà è israeliano, insegnava all'università di Haifa, è stato espulso appunto a causa del fatto che ha sempre criticato aspramente ed esplicitamente lo Stato di Israele. Ora mi sembra che sia emigrato negli Stati Uniti. Comunque questa conferenza si è svolta il 19 ottobre, mi sembra, sì, 19 ottobre, quindi recentemente, e praticamente in una università del Regno Unito. Però prima di dare così spazio a questo approfondimento e anche così a commentarlo, e volevo leggervi un volantino che è stato distribuito lo scorso venerdì 10 novembre al porto di Genova, appunto dove c'è stato questo presidio blocco del varco di San Benigno. Un volantino a cura di una compagna femminista dell'Assemblea contro la guerra e la repressione. Oggi è importante essere qui a bloccare il varco portuale di San Benigno per mille ragioni. Il porto è uno snodo cruciale della logistica di guerra, un luogo fisico in cui convergono i diversi interessi di chi produce e traffica armi, da cui partono materiali di uso militare destinati all'esercito saudita e veicoli mimetici per l'esercito tunisino, cui transita periodicamente la compagnia saudita Bari, con i suoi carichi di armamenti destinati a rifornire le guerre in Medio Oriente, già oggetto di un'intensa campagna di lotta a boicottaggio avvenuta nel 2019 a Genova, come in altri porti d'Europa e del Nord America. Nel porto si concretizzano le economie delle nazioni, si realizzano utili e profitti, circolano merci, perciò ostacolarne il passaggio con la nostra presenza e con i nostri corpi danneggia i guadagni diretti di molte compagnie navali, tra cui l'israeliana Zim. Oggi raccogliamo gli appelli dei sindacati palestinesi che chiamano alla solidarietà internazionalista. e cita appunto la compagna questo appello dei sindacati palestinesi: questa situazione urgente e genocida può essere prevenuta solo da un aumento massiccio della solidarietà globale con il popolo palestinese, ciò può frenare la macchina da guerra israeliana, abbiamo bisogno che voi agiate immediatamente ovunque siate nel mondo per impedire l'armamento dello Stato israeliano e delle aziende coinvolte nelle infrastrutture del blocco. Inoltre facciamo nostra la chiamata delle associazioni di donne in Palestina. I movimenti delle donne storicamente sono stati centrali nelle lotte contro l'oppressione, la discriminazione, il colonialismo e il militarismo. Nello stesso spirito e in risposta al genocidio in corso a Gaza da parte di Israele, noi donne dei sindacati e dei movimenti di base, che rappresentano le donne palestinesi nella Palestina storica e in esilio, chiamiamo tutte le donne e le organizzazioni di donne nel mondo a prendere parola e a sollevarsi in sostegno alla nostra lotta per porre fine a questo genocidio. E allora alziamo la nostra voce e solleviamoci in solidarietà con chi subisce gli orrori delle guerre in corso in Palestina e ovunque. Mettiamo i nostri corpi di traverso a bloccare la macchina bellica i cui ingranaggi sono anche qui. È una questione di sorellanza, ma anche di autodifesa, perché la guerra comincia qui ed esiste un fronte interno in cui le condizioni di vita e di lavoro stanno peggiorando, la militarizzazione attorno a noi è sempre più asfissiante, il controllo e la repressione più soffocanti. Una società di guerra, una società in guerra, necessita al suo interno la pace sociale, contrasta ogni potenziale conflitto e cerca di arruolarci e disciplinarci sui luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università, nelle strade delle nostre città. Abbiamo mille ragioni per rifiutarci di collaborare e per disertare. Ed è anche per questo che oggi siamo qui. Abbiamo mille ragioni per opporci alla guerra e alla sua economia, per ostacolare i traffici di armi in porto e i guadagni della compagnia navale ZIM. Abbiamo mille ragioni e in fondo una sola, la nostra coscienza che ci impone di agire, di mobilitarci con ogni mezzo necessario, in solidarietà alle oppresse e agli oppressi palestinesi e per noi stesse, perché non possiamo stare fermi a guardare mentre si compie un massacro. Di fronte all'oltraggio in atto non vogliamo provare quella vergogna narrata da Primo Levi, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono e che la sua volontà sia stata nulla o scarsa e non abbia valso a difesa. Ecco, allora ritorniamo in voce. Come vi ho annunciato prima, daremo lettura di questo, della sbobinatura di questa conferenza che Ilan Pappé ha condotto in una università, insomma, del Regno Unito il 19 ottobre scorso. Allora è interessante questa conferenza perché lo storico analizza un po' qual è la posizione della società cosiddetta civile israeliana, e cioè la destra e la sinistra, e qual è il dibattito, diciamo, interno alla società israeliana, e svela un po' anche quali sono i punti oscuri di questa società civile, cioè il fatto di non dare importanza, di non occuparsi minimamente del discorso dell'occupazione e appunto da parte dello Stato di Israele e della Palestina. Sì, poi oltre a questo, così ci attraverso un'analisi storica approfondita ci dà, diciamo, degli elementi per non perdere la bussola, per così dire, e non farsi distrarre dal bombardamento mediatico che è assolutamente di parte e appunto è filo sionista, e quindi non perdere la bussola, non perdere l'orientamento morale nel nostro giudizio, ma mantenere uno sguardo lucido anche per avere una prospettiva, appunto vitale rispetto alla questione della Palestina. Allora, ci dice Ilan Pappé: prima del 7 ottobre 2023 le manifestazioni settimanali di centinaia di migliaia di israeliani facevano parte di un movimento di protesta contro il tentativo del governo di cambiare la legge costituzionale in Israele e creare un nuovo sistema politico nel quale i poteri politici avrebbero avuto il controllo totale sul sistema giudiziario e la società civile sarebbe stata sottoposta a un controllo più stretto da parte dei gruppi messianici e degli ebrei religiosi. In uno dei miei articoli avevo descritto la particolare lotta per l'identità di Israele che è stata al centro dell'attenzione fino al 7 ottobre 2023, e io, appunto, Ilan Pappé l'aveva definita come una lotta tra lo Stato di Giudea e lo Stato di Israele. Lo Stato della Giudea era quello stabilito in Cisgiordania dai coloni ebrei, una sorta di combinazione di giudaismo messianico, fanatismo sionista e razzismo, ed era diventata una sorta di struttura di potere, assai cresciuta per prominenza e importanza negli ultimi anni, soprattutto sotto il governo Netanyahu, che stava per imporre il suo modo di vivere, la sua percezione della vita, al resto di Israele, ben oltre quella che chiamiamo Giudea, oltre la Cisgiordania e lo spazio ebraico in Cisgiordania. Contro questa struttura, parliamo sempre di prima del 7 ottobre 2023, si muoveva lo Stato di Israele, simboleggiato al meglio dalla città di Tel Aviv, con l'idea di un Israele pluralista, democratico, laico, soprattutto occidentale o, se volete, europeo, in lotta esistenziale contro lo Stato della Giudea. Quasi una guerra civile, una guerra fredda civile. Ma quando qualcuno poneva ai due protagonisti di questo conflitto interno israeliano la questione dell'occupazione della Cisgiordania e chiedeva se il problema non dovesse entrare nella discussione sul futuro di Israele, la risposta era no. L'occupazione non deve essere tirata in ballo da nessuno. L'occupazione è irrilevante per il futuro di Israele. In effetti, se qualcuno cercava di introdurre l'occupazione come argomento nelle proteste settimanali contro la riforma della giustizia o la rivoluzione della giustizia, come la chiamano, gli veniva detto di andarsene e di non presentarsi tra i manifestanti che sventolavano la bandiera israeliana. Sicuramente chi avesse portato la bandiera palestinese alla manifestazione sarebbe stato malmenato e cacciato dalla manifestazione per avere ricordato che forse il futuro di Israele dipende anche dalle condizioni e dalla situazione in cui si trovano i quasi 2 milioni di cittadini palestinesi di Israele, sottoposti a un processo di criminalizzazione da parte di bande armate che terrorizzano in continuazione i cittadini palestinesi, ovunque in Israele. Bande criminali tra cui molti sono ex collaboratori di Israele in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, trasferiti da quei territori dopo gli accordi di Oslo, molto ben equipaggiati, con armi e assolutamente certi dell'impunità rispetto a provvedimenti di polizia o procedure giudiziarie. Come molti di voi sapranno, questo comporta che i palestinesi che vivono in Israele, sto parlando di cittadini israeliani, hanno paura di uscire la sera nelle loro strade e nei loro spazi a causa della nuova realtà. Ma anche questo non doveva essere argomento della discussione in atto sul futuro di Israele. A chi avesse ricordato Gerusalemme Est e la pulizia etnica dei quartieri arabi di Gerusalemme, i manifestanti e i loro leader avrebbero risposto che non era un argomento importante, ovvero, come ha detto Amira Haas, la coraggiosa giornalista di Haaretz, per quanto riguarda gli israeliani, e questo è fino al 7 ottobre 2023, l'occupazione non esiste, il problema non esiste più, è stato risolto, c'è un'autorità palestinese con una presenza ebraica molto intensa negli insediamenti in Cisgiordania e nessuno deve più occuparsene. Agli israeliani si chiedeva di votare perché non esisteva più, se qualcuno avesse menzionato la striscia di Gaza, se avesse parlato ancora dell'assedio di Gaza, la gente avrebbe detto: ma che stai dicendo? Anche questa era una questione che non preoccupava più nessuno. Il motivo per cui tutte queste altre questioni non sono state affrontate è molto chiaro. Perché ciò che in sostanza si è verificato in Israele è una lotta tra due diverse forme di apartheid. C'erano quelli che volevano sostenere una forma secolare di apartheid in cui gli ebrei israeliani potrebbero vivere in una democrazia pluralista di tipo occidentale. E c'era l'altro tipo di apartheid, quello messianico, religioso, teocratico. Quindi la lotta era una questione interna ebraica su quale tipo di vita ebraica dovrà prevalere, senza alcun riferimento alla vita dei palestinesi, tanto di quelli sotto occupazione in Cisgiordania come di quelli sotto assedio nella striscia di Gaza o sotto un regime discriminatorio all'interno di Israele, per non parlare dei molti milioni di palestinesi rifugiati. Tutto questo sembrava inesistente, ma è scoppiato improvvisamente in faccia agli israeliani la mattina del 7 ottobre. Adesso c'è un'illusione ottica prodotta dallo shock subito da Israele la mattina di sabato 7 ottobre, l'illusione cioè che tutte queste crepe nell'edificio sionista siano scomparse perché l'attacco di Hamas è stato così brutale e devastante che tutti i dibattiti interni sono stati dimenticati e tutti sono uniti dietro l'esercito e il suo attuale piano di invasione della striscia di Gaza per riprendere sul terreno le politiche genocide già in essere. Penso che sia un'illusione ottica. Il conflitto interno israeliano non scomparirà, ritornerà, non so quando, ma tornerà. Ma quel che è più importante, e questo è qualcosa su cui dobbiamo insistere come attivisti, accademici e chiunque in un modo o nell'altro sia legato alla Palestina e alla lotta palestinese, è la nostra insistenza sul fatto che gli eventi del 7 ottobre, comunque li comprendiamo, comunque li affrontiamo, da un punto di vista umano, da un punto di vista strategico, da un punto di vista morale, comunque ci avviciniamo a loro, non dobbiamo cadere nella trappola in cui sembrano cadere anche molte brave persone in questo paese, decontestualizzando e destoricizzando gli eventi del 7 ottobre. Questo è qualcosa che non cambierà nelle prossime settimane. La realtà fondamentale sul terreno è ancora la stessa che c'era prima del 7 ottobre. Il popolo palestinese, a cominciare addirittura dal 1929, è coinvolto in una lotta di liberazione, è una lotta contro il colonialismo, è una lotta contro i coloni e ogni lotta anticolonialista ha i suoi alti e bassi, ogni lotta anticolonialista ha momenti di gloria e momenti di difficili di violenza. La decolonizzazione non è un processo asettico in vitro, è una cosa caotica, disordinata, e più a lungo durano il colonialismo e l'oppressione, più è probabile che si verifichino scoppi violenti, e per questo e per molti aspetti disperati. È importante ricordare alla gente la storia delle ribellioni degli schiavi in questo paese, il loro esito, le rivolte dei nativi americani, le ribellioni degli algerini contro i coloni in Algeria, il massacro di Orano durante la lotta di liberazione dell'FLN. Prendete i racconti sulla festa attaccata il 7 ottobre. Non si dice che era una festa in cui si celebrava l'amore e la pace a 1,5 chilometri dal ghetto di Gaza. C'era gente che festeggiava amore e pace mentre la popolazione di Gaza, a pochi chilometri di distanza, viveva sotto uno degli assedi più brutali della storia umana, che è andato avanti per più di 15 anni, controllato dagli israeliani che decidevano quante calorie potevano entrare nella striscia di Gaza e stabilivano chi entra e chi esce, trattenendo 2 milioni di persone nella più grande prigione a cielo aperto sulla terra. Sì, siamo sempre su Zernis Magnetics e continuiamo la lettura di questa sbobinatura di conferenza di Ilan Pappé. Non bisogna mai abbandonare la nostra insistenza su una definizione accurata del sionismo. Non si può permettere alcuna discussione su ciò che accade oggi in Israele e in Palestina senza parlare del sionismo, e infatti non è certo un caso che così tanti sforzi siano stati investiti da Israele e dai suoi sostenitori in questo come in altri paesi, si riferisce agli Stati Uniti e all'Inghilterra, per equiparare antisionismo e antisemitismo. La storia inizia con una ideologia che è razzista nella sua intima essenza, è una ideologia razzista. Appartiene alla genealogia del razzismo, non alla storia dei movimenti di liberazione, come si insegna nella maggior parte delle università americane, non alla storia dei movimenti nazionali, come si insegna nella maggior parte del nord del mondo, o se ne parla e discetta sui media occidentali. No, appartiene alla storia del razzismo, di un'ideologia razzista, non tanto in origine, quanto nel modo in cui si è manifestata in terra di Palestina. Questo razzismo è parte integrante della natura di insediamento coloniale del movimento sionista. Non si tratta di un fatto eccezionale, ma di qualcosa che avete conosciuto anche in questo paese. Scusate, io ho detto Inghilterra, invece ho sbagliato, la conferenza si è svolta negli Stati Uniti. Di una storia di europei scacciati dall'Europa e che hanno dovuto trovare un posto diverso per essere europei, perché non erano accettati come europei e hanno trovato paesi in cui vivevano altri popoli. E in quell'incontro, nel momento in cui questi coloni hanno incontrato gli indigeni, si è attivata la logica della loro eliminazione. Questo è vero anche per la Palestina e per le politiche di eliminazione, quando l'incontro sionista con i palestinesi porta nel suo DNA, fin dalla nascita stessa del movimento sionista, alla fine del XIX secolo, il desiderio, per dirla in termini meno accademici, di avere quanta più Palestina possibile con il minor numero possibile di palestinesi. Sono politiche che prevedono l'eliminazione degli indigeni, un'eliminazione dei nativi iniziata già nell'immaginario sionista, nelle opere dei pittori sionisti, negli scritti degli intellettuali sionisti, e divenuta una strategia negli anni 30, che fu messa in atto nel 1948 con la pulizia etnica della Palestina, che si concluse con l'espulsione di metà dei palestinesi e la distruzione di metà dei villaggi della Palestina. Tra l'altro, in molti casi i kibbutz occupati da Hamas per alcune ore sono costruiti sulle rovine di quei villaggi palestinesi distrutti nel 1948. E non pochi tra i palestinesi che li hanno occupati appartenevano alla terza generazione di rifugiati palestinesi, provenienti proprio da quei villaggi non lontani da Gaza. Anche questo fa parte della storia. Quello che sto dicendo non significa che io giustifichi tutto quello che è stato fatto, ma fornisce il contesto storico senza il quale non si può andare alle radici della violenza, ma si rimane a livello dei sintomi. E invece bisogna andare alle radici della violenza, che nasce da una precisa ideologia, un'ideologia razzista, l'ideologia sionista, alla cui base sta l'idea della eliminazione dei nativi. Ma se si riflette sul fatto che in quello stesso anno il Sudafrica emana la legge sull'apartheid e Israele mette in atto la pulizia etnica della Palestina, parliamo del 48, si comincia a comprendere il messaggio ricevuto dal regime di apartheid del Sudafrica e più ancora dallo Stato sionista nel 48 da parte della comunità internazionale. Sì, stiamo annunciando con orgoglio la dichiarazione dei diritti umani, ma non si applica nel vostro caso. La pulizia etnica della Palestina è accettabile per il fatto che, ben inteso, questa era la propaganda, non certo il vero motivo, ma era la giustificazione data da un intellettuale americano, per il fatto che bisognava tollerare una piccola ingiustizia per correggerne una molto più grande, vale a dire che i palestinesi dovevano risarcire gli ebrei per 1000 anni di antisemitismo europeo e cristiano. Il baratto era molto chiaro e per questo Israele fu il primo Stato a riconoscerne la nuova Germania. Ci si sarebbe aspettato che Israele non fosse il primo, ma almeno il terzo paese a riconoscere la nuova Germania, ma per entrambi l'accordo era molto importante e comportò anche un'imponente assistenza finanziaria a Israele da parte della Germania, che contribuì a costruire il moderno esercito israeliano già all'inizio degli anni 50. Se il messaggio dal mondo era che nel caso dello Stato di Israele la pulizia etnica rappresentava un metodo accettabile di strategia della sicurezza nazionale, non ci si può certo stupire che poi la pulizia etnica sia continuata. Tra il 48 e il 67 Israele ha espulso 36 villaggi dal suo territorio. Nel 67 ha espulso 300.000 palestinesi da Cisgiordania e Gaza e quasi 700.000 ne ha espulsi in seguito fino ad oggi. E mentre stiamo parlando, Israele sta continuando la pulizia etnica in altre località e dalle montagne meridionali di Hebron, dall'area di Gerusalemme e da altre parti della Palestina. La pulizia etnica della Palestina è diventata il DNA della politica israeliana nei confronti dei palestinesi e per metterla in atto si impiegano centinaia di migliaia di persone, perché non è la pulizia etnica di massa come quella del 1948, ma è uno stilicidio. A volte l'espulsione di una persona o di una famiglia, a volte non è nemmeno un'espulsione, ma la chiusura di un villaggio o di un enclave. Questo è tutto, questo è l'unico punto fermo storico necessario di fronte a chiunque si esprima col linguaggio vile che viene usato contro i palestinesi quando ci dicono che se sventoliamo la bandiera palestinese stiamo sostenendo il terrorismo e quando si paragona quello che è successo la mattina del 7 ottobre con l'olocausto, calpestando così la memoria dell'olocausto e non capiscono o non sanno cosa stanno facendo. Ma anche se lo dicono con la convinzione di un'alta motivazione morale, è importantissimo collocare questo particolare evento nella storia più ampia e lontana della Palestina moderna e nella storia particolare dell'assedio di Gaza, iniziato nel 2007, l'assedio disumano di 2 milioni di persone, uno degli assedi più lunghi, probabilmente il più lungo mai visto, contro un numero così elevato di persone in termini di cibo, acqua, libertà di movimento e altre necessità fondamentali della vita. Tanto da indurre le Nazioni Unite già nel 2020 a dichiarare la vita a Gaza insostenibile per gli esseri umani. L'hanno dichiarato 3 anni fa che a Gaza la linea rossa era stata superata. Perciò non potete stupirvi se quando la gente esce da quella prigione c'è rabbia, vendetta e violenza. È ovvio, è successo lo stesso nelle ribellioni degli schiavi, dei nativi americani, dei popoli colonizzati dall'India al Nord Africa. Come ho detto prima, la lotta anticoloniale non è cosa da quaccheri e pacifisti, può essere molto violenta e può essere più pacifica. E può essere più pacifica, molto dipende da quanto il colonizzatore, il pulitore etnico è disposto ad accettare il fatto che le vittime del colonialismo e dell'oppressione non scompariranno e non rinunceranno a lottare. Prima lo capiscono, più è probabile che si verifichi una transizione pacifica tra una realtà coloniale e una postcoloniale. Se al contrario si rifiutano di capire, la realtà continuerà a esplodergli in faccia e il 7 ottobre non sarà stato che l'ultimo episodio di quel tipo. Non c'è niente di nuovo in tutto ciò, ma è importante ricordare che il sionismo ha rappresentato un disastro che ha prodotto la distruzione di una Palestina che senza il sionismo sarebbe stata assai diversa. È molto importante ricordare come fosse la Palestina prima del 1948, in cui musulmani, cristiani ed ebrei coesistevano, ma la coesistenza non era un'idea artificiale tipo vivi e lascia vivere, ma un modo genuino di convivere. Non lo si può idealizzare naturalmente, non mancavano tensioni e momenti di crisi, ma era un mosaico di vita che particolarmente in Palestina consentiva alla gente di godere di quello che il paese aveva da offrire, e il paese aveva da offrire cose che non esistono più nella Palestina attuale. Il paese offriva, per esempio, abbondanza d'acqua. Quelli che ricordano la Palestina prima del 48 sanno bene che ogni villaggio palestinese aveva le sue sorgenti di acqua fresca. La favola sionista, ripresa di recente dal presidente dell'Unione Europea, dei sionisti che fanno fiorire il deserto è una pura invenzione. In molti luoghi il sionismo ha trasformato in realtà una terra fiorente in un deserto. È un fatto che si può vedere solo ricostruendo con l'aiuto degli storici la realtà della Palestina prima del 1948 in termini di umanità e rapporti umani e anche in termini di ecologia. Il rapporto, per esempio, tra i palestinesi e le piante aromatiche e medicinali e la natura distrutta dal sionismo era parte della qualità della vita dei palestinesi. Oppure, come osservava il tardo Emil Habibi quando viveva a Haifa, non ho mai saputo chi fosse musulmano e chi cristiano nella mia strada prima del 1948. E non è questione di nostalgia per amore di nostalgia, ma una sorta di storia alternativa, nel senso che c'era la possibilità di una Palestina diversa. In quella storia bisogna anche includere il fatto che il movimento nazionale palestinese, il movimento anticoloniale palestinese, fin dal primo momento in cui il sionismo mise piede nella Palestina storica, si è attenuto a due principi, e la cosa è così ben documentata che non si fa davvero fatica a dimostrarlo. C'erano due principi ai quali i palestinesi tenevano. Il primo di questi principi era il diritto all'autodeterminazione dei popoli. E i palestinesi pensavano che questo diritto spettasse anche a loro, come agli iracheni, ai libanesi, agli egiziani. Il secondo principio era la democrazia. Eppure, da tutte le delegazioni americane che visitarono la Palestina tra il 1918 e il 1948 e da tutte le delegazioni internazionali, tanto anglo-americane che di qualsiasi altra organizzazione, i palestinesi ricevettero sempre la risposta che sì, il principio della democrazia e dell'autodeterminazione sta molto a cuore al mondo occidentale e costituisce il solido pilastro su cui fondare il nuovo mondo arabo post-ottomano, ma non si può applicare alla Palestina, perché l'impero britannico si era impegnato a fare della Palestina uno stato ebraico e gli ebrei sono un'infima minoranza, dunque il principio di autodeterminazione non si può applicare e naturalmente il principio di maggioranza e di elezioni democratiche era fuori discussione per i palestinesi. E arriviamo alle conclusioni, poi se vorrete leggere l'articolo completo, insomma, nel blog metteremo il riferimento. Concluderò ribadendo il punto principale che voglio davvero affrontare stasera. Di fronte alle situazioni drammatiche c'è sempre il rischio delle illusioni. Non si può sottovalutare il dramma, la catastrofe umana a cui stiamo assistendo e purtroppo penso che quello che stiamo vedendo è solo l'inizio della catastrofe che Israele sta per imporre non solo alla striscia di Gaza ma anche alla Cisgiordania. Useranno gli avvenimenti come pretesto per cambiare politica anche in Cisgiordania. Il compito più urgente è cercare di fermarli con tutti i mezzi a nostra disposizione in questo paese, per fare pressione per un intervento internazionale, porre fine a queste politiche genocide che, ribadisco, temo fortemente si estenderanno anche alla Cisgiordania. Parte di quello che dobbiamo fare però è elaborare strategie per il futuro, perché le questioni fondamentali rimarranno anche quando questa particolare congiuntura finirà in un modo o nell'altro. Ed è questo tipo di approccio che a mio avviso ci può garantire che non stiamo perdendo la nostra bussola morale. Non lasciamoci scoraggiare da chi ci dice che sicuramente dopo quello che è successo il 7 ottobre non potremo dare lezioni di morale. Ricordiamo a tutti che nessuno ha messo in dubbio il diritto dell'Algeria ad essere libera, il diritto del Kenya ad essere libero, il diritto dell'India a scrollarsi di dosso il colonialismo. Quali che fossero gli incidenti nella lotta di liberazione o i livelli di violenza o le forme dello scontro tra le forze anticolonialiste e quelle coloniali. E se nessuno ha mai messo in discussione il diritto fondamentale alla liberazione e all'indipendenza di questi paesi, non dovremmo farlo nemmeno nel caso della Palestina. Chi vuole vedere una Palestina pacifica dovrà parlare prima di tutto di una Palestina libera. Bene, stiamo ascoltando in sottofondo questa band statunitense ed esattamente di Minneapolis, loro sono i War Plague, questo è il loro album datato 2018, ma poi volevo anche ricordare che a inizio trasmissione abbiamo ascoltato i Vice Squad e li abbiamo tenuti un po' in sottofondo, come anche abbiamo ascoltato per durante alcuni interventi sempre sottofondo, ma anche poi tra un intervento e l'altro, la band inglese della zona di Londra, i Restarts, dal loro album Uprising. Bene, rimaniamo ancora con i War Plague. We'll be right back. Sì, eccoci qua. Vabbè, niente, vi mando un saluto a tutte e tutti voi che siete in ascolto, anch'io, per prendermi uno spazio per questa, così, questi minuti che ci restano, beh, cioè insomma un piccolo spazio questa sera, bando alle ciance, un po' in legato al discorso che cercavo di, cioè che sto cercando così un po' di fare in questi mesi, partendo sempre dal discorso della pubblicazione lì dei volumi sulla critica radicale, insomma su quelli insomma che erano gli eredi appunto di Lud, poi di comuntismo, eccetera eccetera, e quindi siamo in tempi quasi mezzo secolo distanti da noi, uno e due, siamo appunto in contesti così un po' eretici del marxismo e molto curiosi, diciamo, nei confronti dell'anarchia lo stesso, no? Seppur critici e contigui un po' a quello, le cose migliori dei situazionisti, ecco, del situazionismo, sì, quello che è stato, ecco, quello storico, diciamo, non gli esiti ultimi del personaggio Guy Debord. Quindi, alla luce di queste così letture che avevamo fatto qualche settimana fa, io continuo perché mi è capitato sotto le mani, dopo tanto tempo che ce l'avevo, giaceva lì, insomma, un opuscoletto che davo per scontato, probabilmente l'avevo letto in altre raccolte, e invece questo deve essere, è un Nautilus, diciamo, è un opuscoletto della Nautilus verde del primi anni 90, metà anni 90, adesso non so, comunque è una traduzione di questo pamphlet che si chiamava Della miseria nell'ambiente studentesco, considerata nei suoi aspetti economico, politico, psicologico, sessuale, specialmente intellettuale, e di alcuni mezzi per porvi rimedio. Miseria è il soggetto, no? Me è incuriosito, insomma, perché non perché adesso dobbiamo fare la predica, insomma, pistolotto anti studenti, anti così, sì, soliti discorsi così che facevano i situazionisti, non per quello, ma appunto alla luce dei ragionamenti che cercavamo di fare su questi, così, del comuntismo, questi italiani, diciamo, questi diciamo questa componente più italiana più che francese. Appunto, questo è un pamphlet che loro diciamo genovesi torinesi avevano, potevano accedervi facilmente già quella volta, a differenza di altri libri, come appunto La società dello spettacolo, pur essendo del 67, si sa che in Italia ha avuto delle vicissitudini editoriali ed è stata è circolata nella versione autorizzata da Debord, rivista da Debord, insomma, dal 79 in poi, mentre invece questo Della miseria dell'ambiente studentesco è molto molto sintetico, non è paragonabile, insomma non è un'analisi, in ogni caso era disponibile già nel primi 70, no? Adesso di preciso non vado così un po' a braccio, cioè a memoria su questo discorso, però loro lo conoscevano, ecco, questi comuntisti, eccetera. I temi, appunto, che invece appunto dicevo che secondo me erano riprendibili, ecco, era la critica, diciamo, sì, qua loro chiaramente situazionismi e i situazionisti, se vogliamo adesso anche schematizzare, bisogna anche aver presente che era un marxismo, diciamo, che ereditava quella che era la scuola di Francoforte, diciamo l'impostazione della scuola di Francoforte, quindi la critica del razionalismo, la critica della scienza, la critica appunto dell'illuminismo, una appunto un cercare di fare appunto del razionalismo una macchina auto, cioè che cercava di mettere in luce appunto gli aspetti, anzi di mettere il sospetto sugli aspetti, cioè il sospetto sul carattere più insidioso del razionalismo, diciamo dell'illuminismo, del razionalismo, più insidioso nel senso di quelli che erano il processo appunto di pensiero del appunto di quella che è la concezione razionalista, diciamo, cioè razionalista nel senso industriale novecentesca, no? Di quello che appunto gli ambiti dove appunto è arrivata anche nelle dimensioni più virgolette intime, appunto più personali della vita, è penetrato appunto questo spirito diciamo di, come dire di sì, naturalmente finalizzato, ecco, con l'obiettivo della produzione industriale, diciamo, quindi partendo appunto dalla struttura, chiamiamola così, fabbrica industriale, a tutti gli aspetti, alla famiglia, ai rapporti, diciamo, umani complessivamente. Ecco, allora, quello lì è l'orizzonte della sì, del movimento, chiamiamolo così, situazionista, no? Poi tutti gli aspetti più contestatari, più quelli appunto più famosi, sono diventati più famosi, più anche facili, diciamo così, superficiali, li diamo per scontati quelli, no? Però la radice, insomma, anche il fusto, diciamo, del discorso dei situazionisti va collocato appunto in questo movimento appunto della dialettica dell'illuminismo, ecco, diciamo così, schematicamente. Quindi la miseria nell'ambiente studentesco è più importante la miseria degli studenti, nel senso, questo appunto fu un opuscoletto che uscì a Strasburgo nel novembre 66. Cosa è successo? Praticamente un gruppo di studenti, cioè studenti e altri personaggi che vedremo dopo, diciamo così, sfaccendati, che giravano intorno all'università di Strasburgo, si sono presentati alle elezioni per chiamiamolo adesso Senato, adesso non so anche come si chiama, ma comunque l'assemblea, quella istituzionale dell'università, e con dichiarato, insomma, programma quello di sciogliere l'assemblea universitaria, e sono stati diciamo, qualcuno li ha votati, molti li hanno votati, loro appunto hanno distribuito a questa unica assemblea questo opuscoletto, dove appunto è dichiarata la volontà di distruggere, sia all'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico, dichiarata la volontà di distruggere l'assemblea universitaria. E l'esito è stato che chiaramente hanno sciolto quel consiglio lì, l'hanno sciolto, e comunque hanno dichiarato chiuso specie di sindacato che c'era, uno sportello di aiuto psicologico, che era comunque un ufficio dell'università, perché appunto è stato dichiarato, cioè è stato rifiutato da tutta, dalla maggioranza degli studenti, perché appunto è stato individuato come controllo parapoliziesco degli studenti. Questa qua è la premessa, i contenuti di questo opuscolo, secondo me, è partire appunto da un'analisi della realtà dello studente, no? della studente dell'università francese di quell'epoca là, pre-68, l'analisi appunto della sua vita disgraziata, morto di fame, nel senso che, a differenza dei suoi pari, cioè di quelli dei ventenni come lui che erano già a lavorare e si facevano gli affari loro e avevano... Sì, parliamo di più disinteressati più che altro alla carriera, si facevano gli affari loro, nel senso avevano il loro lavoro, poi finire a lavorare avevano lo stipendio e lo spendevano, andavano a bere, a divertirsi, a fumare, quello che è. Mentre invece questi poveracci, pur venendo appunto da, era appunto la realtà di quell'epoca là, degli anni 60, pur venendo da una realtà familiare media borghesia, no? Per la, beh, insomma, media o piccola borghesia, appunto, quindi con aspettative molto elevate, dovevano arrangiarsi e tirare avanti a fare la bohème, questa qua non per scelta ma per necessità. Allora questo è un punto, no? Questa spietatezza nel dire che da questo tipo di contesto non può venire fuori altro che, diciamo, rassegnazione, obbedienza, star dietro alle mode, far vedere che si è appunto sempre così informati di tutto, perché appunto c'è il feticismo anche per le merci culturali, sui dischi, sui libri, sulle riviste, eccetera eccetera, no? In realtà concretamente era appunto tutto un discorso, cioè era tutta una mascherata sta qua, perché appunto il vero percorso di questa fascia di così società era il destino, anzi più che percorso, il destino era miserabile quadro subordinato, no? Già quella volta, perché era anche la fine della cultura alta, diciamo nel dopoguerra, ecco, c'è questo passaggio per cui il discorso, quella che è per esempio adesso, non so, in Italia la cultura che aveva un Pasolini, che un Pasolini è pari, insomma, anche ne abbiamo parlato anche di Fortini altre volte, e si erano formati in università prima della guerra, dopo la guerra, ecco, non sarà più così, il livello comincia a scendere, eccetera eccetera. Sì, ecco, questa è un'altra cosa, emerge questa ideologia della gioventù in rivolta, ecco, questa qua è, secondo me, ancora adesso è una mistificazione che continua. Anni fa, mi ricordo, è venuto a presentare un libro, un film, David Greco, democratico, intellettuale democratico, appunto, sodale di Pierpaolo Pasolini, ambienti romani, diciamo, quelli che tirano avanti così, scrivendo, conoscendo, girando, ormai ha anche i suoi anni, David, è venuto appunto a colpo sicuro, diciamo, in una presentazione dove si voleva anche lì tirar fuori mille questioni sugli anni friulani di Pasolini, dicendo alla fine, ancora adesso, dicendolo, sì, sostenendo questa cosa, che quello che ha portato appunto la ribellione del 68 sono tutti aspetti, diciamo, miti, ecco, miti di costume, quindi le minigonne, quindi la promiscuità sessuale, o quantomeno, insomma, la libertà così proclamata. dovuta sostanzialmente alla diffusione della pillola anticoncezionale. E cos'altro? E quindi no, è l'emergere di questo giovane in rivolta, un mito alla fine pubblicitario, cioè come sì, diciamo pubblicitario, no? Quindi studente, giovane si identificano. E poi c'è la cosa, quindi ogni generazione di giovane si ripropone come contestatore, poi quando appunto finisce la dimensione studentesca passa al suo avvenire miserabile di quadro o di oggi come oggi, non ci esprimiamo appunto su quello che è il destino appunto di chi esce da questi macchinari che sono le università del 2023 in Italia. E basta, quello che resta nel discorso, così, nel parlare del più del meno, è che bello che essere studenti, che bello essere giovani, si identificano, le due robe si fondono, quindi 68 uguale movimento studentesco, niente di più fa, cioè 68 chiamano proprio maggio francese uguale giovani in rivolta, niente di più non corrispondente alla realtà. In realtà appunto c'erano movimenti sì di giovani, sì di contestatori, che però erano, parliamo della Francia, altri tipi di sì, non studenti, perché se la realtà studentesca era quella che abbiamo descritto noi adesso e che descrivono in questo opuscoletto e che lo descrivono nel 66 appunto in diretta, non è retro ricostruita la cosa, c'erano una serie di come possiamo dire di sì non fazioni, però così gruppi di individui che si identificavano sì per lo stile di vita che portavano avanti, però appunto non si identificavano con lo stile miserabile dello studente. Ad esempio i blouson noir erano appunto questi sfaccendati, gente per lo più che si rompeva le palle, cioè rivolta contro la noia ma senza prospettive di superamento, no? Beh, quelli che sono, cioè, poi adesso saltando i pali in frasca, sono stati ad esempio i protagonisti delle ultime, così, quelle che a me vengono in mente, rivolte giovanili, a parte appunto gli studenti per contro appunto l'alternanza scuola-lavoro, che è successo nel 2022, no? Quando è successo la morte del ragazzo qua vicino. Se andiamo a vedere che cosa c'è successo prima, c'erano queste rivolte di circa 3 anni fa, no? Nel 2020, quando erano venute fuori le zone rosse, no? del governo Conte, e hanno cominciato a scatenarsi questo genere di personaggi qua, di gioventù che si era rotta le palle di essere chiusa a casa, ed erano come questi, cioè come questi blouson noir, assimilabili, diciamo, chiaramente generazioni diverse, però gente che non ha nessun interesse a costruirsi carriere nel lavoro, gente che più o meno appunto con l'extra legalità o con l'illegalità è contigua, e si formano queste micro comunità, purtroppo appunto, però che naturalmente non avendo prospettive di superamento finiscono per riprodurre contraddizioni della società che stanno contestando, no? Cioè iniziano appunto come rivolta ma non hanno una prospettiva di superamento, quindi non costruiscono così prospettive, sì, come mi ripeto appunto, prospettive di un futuro appunto liberato, ecco. Un altro esempio erano appunto questi provos, che erano altre fazioni, diciamo, controculturali, cappelloni, beat, diciamo, però più nei Paesi Bassi, E basta, questo ecco, si conclude poi questo opuscoletto abbastanza denso con una, insomma, io avevo selezionato anche delle letture, ma non ha importanza adesso, non caso mai ci ritorneremo eventualmente. Niente, fa una, appunto, la conclusione è sul, ancora una volta, appunto, riprende sul il discorso della autogestione, appunto, dell'autogestione come momento, non appunto scopo in sé, ma come appunto mezzo della lotta rivoluzionaria, quindi cioè che la questione organizzativa in sé, in sé per sé è una questione puramente teorica, puramente, quindi porta a scindere teorie da prassi. Se appunto non c'è un'autogestione nei mezzi, il pericolo appunto è quello di finire a parlare di questioni organizzative separate dalla realtà appunto della lotta. Appunto, se la realtà, cioè se la realtà è una realtà di lotta, allora l'autogestione funziona. Se la realtà è una realtà immobile, sono chiacchiere, diciamo, separate dal reale, diciamo, la trasformazione reale, insomma, in senso rivoluzionario. Ecco, quindi molte tocca varie, insomma, questioni che abbiamo cercato che ho cercato di evidenziare anche negli altri interventi. Il proposito sarebbe quello anche di continuare, andare avanti, per cominciare anche con Cesarano, e vedremo se ce la faremo, insomma, prossime settimane e mesi. Sì, e siamo arrivati alle 21:25, quindi quasi in chiusura di Zardins Magnetics. Allora, vi presento brevemente un'iniziativa che si svolgerà domani, venerdì 17 novembre, allo spazio autogestito di Via de Rubeis 43 a Udine. Si tratta della presentazione di un libro, del libro Jin Jian Azadi, La rivoluzione delle donne del Kurdistan, un libro che è stato così redatto dall'Istituto Andrea Wolf, e le edizioni sono le edizioni TAMU. Saranno presenti con noi alcune compagne del Comitato Genealogy Italia. Allora, la presentazione del libro sarà alle ore 20:30. Prima, per chi vuole, verso le 19:30 si può mangiare qualcosa insieme, insomma un buffet vegan di autofinanziamento. Solamente due parole su questa, su questo libro. Beh, intanto è un libro che appunto ha voluto ricostruire, diciamo, la storia della rivoluzione delle donne del Kurdistan attraverso le narrazioni, le voci di 20 rivoluzionarie curde. E quindi, insomma, parte dalle origini e non solo dalla liberazione di Kobane del 2015, ma dalle origini del movimento delle donne curde all'interno del PKK, eccetera. E è stato scritto questo testo nel 7° anniversario del massacro delle tre rivoluzionarie, Sakineh Khansizh, fondatrice del PKK, Fidan Dogan e Leyla Saylemez. Le tre compagne sono state, ricordiamo, uccise il 9 gennaio del 2013 a Parigi da un comando mandato dai servizi segreti dello Stato turco. Appunto, le compagne dell'Istituto Andrea Wolf, così nel 7° anniversario, hanno deciso di, avevano già raccolto, insomma, parzialmente queste interviste, queste storie delle 20 rivoluzionarie, hanno deciso di creare, appunto, dare vita a questo libro. E ultima cosa, l'Istituto Andrea Wolf nasce nel 2019 in Rojava e prende il nome dalla militante internazionalista tedesca, appunto Andrea Wolf, che fu uccisa nel 1998 mentre combatteva per la libertà del Kurdistan. Ok, mi pare che c'è tutto. Allora, vi ricordo, domani, venerdì 17 novembre, ore 20:30, presentazione del libro Jin Jian Azadi, La rivoluzione delle donne del Kurdistan. Per chi vuole, 19:30, buffet di autofinanziamento. Bene, siamo proprio giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle ore 21:30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane, proprio in diretta, e siamo in diretta totale. E che altro dire se non che proprio siamo strettissimi con i tempi, che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Vi ricordo anche i nostri contatti, se volete scriverci sotto forma mediatica, facendo ovviamente la classica mail, intestando a liberetutti@autistiche.org, oppure in forma cartacea scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Ricordo che questa trasmissione, ma anche tutte quelle precedenti, le potete riascoltare nel blog andando alla ricerca zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, Sì, altra cosa che stiamo ascoltando in sottofondo, che probabilmente ascolteremo ancora un pezzo perché è proprio sul termine, loro sono gli Echo. Questo è una band di Milano Saronno, e il loro album datato 2015, Orizzonte Divorami. E anche salutiamo chi ci ascolterà domani in replica sulla domani venerdì alle ore 17 sulla web radio Radiazione. Ciao a tutti e al prossimo giovedì. Sì, scusate, ciao anche da parte nostra. In particolare io volevo anche salutare chi ci ascolta dai domiciliari e ci ascolta sempre, e un saluto anche a te. E le prossime, appunto, cioè, no, scusate, le altre, anche ovviamente un saluto a tutte le persone che hanno restrizioni nella libertà. A giovedì prossimo. Ciao.